Presidente Pierluigi Ceccardi, sono momenti e giornate molto intense nei rapporti, nelle relazioni industriali del mondo metalmeccanico con i sindacati. Giovedì avrete un incontro, c'è cioè un incontro importante, oggi l'incontro tra le varie sigle confederali. Sullo sfondo però è inutile nasconderselo, c'è questa richiesta netta della Fiat di uscire dal contratto dei metalmeccanici, avviare una nuova società su Mirafiori e poi eventualmente entrare in un nuovo contratto nel settore pro auto, quindi di Federauto, non più nel settore metalmeccanico. Lo ritiene uno strappo oppure risponde a esigenze specifiche di Marchionne, che ormai ragiona con una mentalità e su scala internazionale? Vorrei fare una precisazione. Federauto esiste da molti anni e rappresenta i concessionari d'auto. Quindi se ci sarà un'altra organizzazione che rappresenti il contratto della Fiat non lo so. Noi stiamo lavorando molto intensamente e credo che alla fine approderemo a un risultato positivo. Questo è l'impegno di Confindustria in primo luogo, di Federmeccanica e anche di tutti i miei collaboratori. Quindi noi stiamo lavorando in questo senso e credo che alla fine sarà soddisfatta uno dei nostri grandi principali associati che è Fiat. Ma Federmeccanica rappresenta 12.000 aziende e quindi io come presidente devo essere il presidente di tutti. Secondo lei si sta creando una, tra virgolette, non dico frattura, ma differenza tra le esigenze delle medio-piccole, che sappiamo essere in difficoltà in questo periodo, i dati sulla produzione industriale purtroppo sono un po' in rallentamento nell'ultimo trimestre dell'anno, e le esigenze invece di una grande multinazionale come Fiat. Quindi l'aspetto dimensionale che anni fa contava meno sta diventando un aspetto dirimente? Non credo, credo che Fiat abbia delle esigenze, quindi che porti avanti le sue esigenze per rendere questo paese competitivo, per avere più competitività, per essere un player che gioca sul mercato mondiale. Credo che questo sia il suo scopo, credo che non voglia fare nessun torto a Confindustria, ci mancherebbe altro. I nostri rapporti anche a titolo personale sono eccellenti.